Respinge il tuo dimone, e il tuo dimone saria, e ne tracina il mio, e cuore io prego inesorato, e te.